La mezzadria è un rapporto di lavoro che nasce più o meno nel Medioevo e nasce perché i grandi, probabilmente comandanti di ventura, i grandi condottieri, i grandi feudatari forse, non avendo la possibilità di coltivare in proprio evidentemente le grandi estensioni che erano il beneficio di servigi fatti ai potenti, era un contratto che serviva a poter metterlo nelle condizioni di poter far fruttare la terra. Uno dei primi contratti di mezzadria di cui si è trovata traccia è un contratto fatto dai frati farfensi perché vengono da Farfa, però una parte di questo capitolo, di questo gruppo di frati, che erano frati militari, aveva la capitale nel Piceno, precisamente a Santa Vittoria. Ecco, uno dei primi contratti di mezzadria, perché la loro influenza arrivava fino al porto di Ancona, viene dato dai frati, perché poi la Chiesa, per esempio, è sempre stata una grande proprietaria terriera. Che cosa prevedeva la mezzadria? La mezzadria prevedeva, è durata in Italia fino alla metà degli anni 70, Giancarlo, no? Poi magari qualcosa puoi dire. La mezzadria prevedeva che il padrone, il proprietario terriero, che a me comunque piace ancora chiamare padrone, poi magari vedremo perché, metteva a disposizione la terra e un casolare, una casa. Una famiglia, un conduttore, un contadino, ci metteva la sua capacità e ci metteva la sua opera. Il frutto di questo lavoro veniva diviso a metà, la metà al proprietario terriero e la metà, da cui tra l'altro il nome mezzadria, no? Palese. Ora, io non so come si sia trasformata questa cosa negli anni, ripeto perché non sono uno storico, presumo che i potenti siano sempre stati più potenti e i poveri siano stati sempre più poveri, però sta di fatto che quando io mi sono incrociato con questo tipo di realtà, la situazione nel periodo che io ho preso in considerazione, quindi dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma anche prima, era di questo tipo. C'era uno squilibrio netto, preciso, chiaro, forte tra il padrone e il contadino. Era un rapporto completamente sbilanciato tra, per capacità culturale, economica, di relazioni. E tra l'altro il padrone aveva una grande arma a disposizione. Il contratto di mezzadria normalmente durava un anno, veniva rinnovato a ogni fine anno, per esattezza l'anno agrario cominciava l'11 di novembre, San Martino. Fare San Martino non a caso significa traslocare, perché quando il contadino andava via a San Martino e quindi si traslocava a fare San Martino, traslocare. Non so se qui era usanza da queste parti, ma più o meno è uguale in tutta quanta Italia. Quindi il rapporto era esageratamente il rapporto in favore del proprietario terriero. La disdetta era la grande arma del padrone. Se tu non avevi la possibilità di avere un terreno da lavorare, non potevi far vivere la tua famiglia, non avevi neanche la casa. Quindi è chiaro che questa era una grande forma di coercizione nei confronti di chi lavorava la terra, era anche una grande coercizione politica, nel senso che se dal punto di vista politico il contadino diventava un po' una testa calda, il padrone aveva questa grande arma. Ma il rapporto di mezzadria significava anche che, a dispetto della esperienza e della capacità che era in capo invece a chi lavorava davvero la terra, il proprietario terriero aveva la conduzione tecnica del fondo, per cui era il proprietario che decideva i tempi del lavoro. Il contadino doveva altro che adeguarsi a quelli che erano, magari il padrone non aveva neanche le competenze perché faceva il commerciante piuttosto che fare, che ne so, il priore di un convento che aveva 50-60 ettari, vabbè, dopo lì ci pensavano i fattori a ingressarsi. Oppure il possidente. Oppure no? Il possidente, cosa, certo, sì. Sì. Lui pubblica, no, e nella tua mostra, nella mostra fotografica legata al libro, a un certo punto c'è una carta d'identità di uno di questi proprietari dove dice professione possidente. Naso greco possidente. Sì, sì, e quindi assistiamo all'interno di questo, lo racconto all'interno di questo libro perché me lo hanno raccontato. Guardate, questo libro, una cosa importante, io non posso essere nostalgico, seppure sembra, perché io non ho vissuto quel periodo, l'ho soltanto sentito raccontare dalla mia famiglia, da mio padre e mia madre, nel tempo che siamo stati insieme, per fortuna, e poi dai contadini. Quindi io non posso essere nostalgico, anche se qualche volta dicendo queste cose potrebbe sembrare. Non ho vissuto quel periodo, quindi e qui c'è, è tutto un costellare di eventi, di situazioni per cui c'è una vessazione continua da parte del proprietario terriero. Io per esempio ho, adesso dico qualche parola in dialetto che tanto non guasta mai, delle storielle. C'è un signore che si chiamava Sor Emidio, che a un certo punto, siccome poteva decidere del lavoro dei campi, incontra il suo contadino in piazza la domenica, tanto andavano tutti quanti alla messa, poi bestemmiavano tutta la settimana, però la domenica si andavano tutti alla messa, e il contadino lo vede come va, come non va, dice: no, mo adesso ho portato il letame nei campi, perché così, sai, avevo un po' di tempo, mi sono avvantaggiato, ho fatto prima. Dice: come, non mi domandi niente? E dici: no, ma c'avevo tempo, l'ho fatto bene, tanto bisognava farlo. No, io sono il padrone, tu prendi tutto il letame, lo togli dai campi dove l'hai messo, e poi, perché non veniva spaso il letame, veniva messo a mucchietti coperti di terra, così non perdeva, non si essiccava, poi successivamente veniva sparso, veniva messo con i forconi. E dici: no, tu prendi tutto quanto il letame, lo stabio, lo prendi, lo riporti nello stabiare, cioè nel luogo, nella concimaia, e poi quando te lo dico io, che sono il padrone, lo prendi e lo riporti nei campi. Cioè, adesso non, è vero che la storia non si fa interpretando le cose oggi, con la testa di oggi, per quello che era ieri, però probabilmente c'era anche poca, meno cultura, però insomma, quando uno si mette a lavorare, poi dopo il frutto del suo lavoro viene vanificato, insomma, qualcuno si poteva anche, non so se Milano si può dire incazzare, si può dire, no? Insomma, era una cosa abbastanza pesante, oppure ci sono delle situazioni tali per cui, insomma, c'era un controllo pauroso, il rapporto tra il padrone e il contadino era diventato una cosa terribile. Lui parlava per esempio di questa cosa dei presiente. Il contratto di mezzadria è un contratto che prevede, non ho possibilità di farvelo vedere, però immaginate soltanto una cosa di questo tipo. Ci sono tutte, intanto è scritto in un italiano perfetto, alla fine ci sono quasi tutti gli obblighi. Guardate, io ho visto un contratto del 1890, credo, su 100 voci non ce n'è una che non dica è fatto obbligo al contadino, cioè una su 100. Poi la cosa bella però è questa, che alla fine c'è la firma del padrone, perché è un contratto e quindi andava firmato, c'è la firma del contadino oppure la croce firma. Cioè tutto quanto il castello costruito ha possibilità del padrone di vessare, di fare quello che vuole, insomma, no? Tant'è vero che poi alla fine uno parla in italiano corrente e quell'altro deve mettere la firma perché non sa neanche, con la croce, perché non sa neanche leggere. Di presiente è una cosa fantastica, perché presiente significa presente, dono, regalo, però in questo caso presiente significa portare delle cose al padrone, ed erano un obbligo, quindi è una cosa che non funziona tanto, perché è un presente obbligatorio, è come se io devo fare per forza un regalo. In questo caso si trattava, e c'è scritto, 30 uova al mese, oppure 6 paia di capponi. Guardate, è specificato anche il peso, e io ho anche trovato chi non aveva i capponi di quel peso e gli è stato tolto del denaro perché il peso non era corrispondente. Allora io non so, ho la mente di oggi, non ero in quel periodo, però onestamente, cioè, faccio fatica, è difficile capire queste cose, no? È veramente difficile, perché poi si va contro l'uomo, voglio dire. Il contadino doveva portare i capponi per andare a sputare sangue, per andare a lavorare. Cioè, quando il contadino, così come parlavamo prima del tame, quando il contadino doveva cominciare per esempio a vendemmiare oppure a tagliare il grano, che una volta non si faceva con le mietitrebbie, si faceva a mano, doveva andare dal padrone a chiedere se era possibile cominciare a lavorare, e gli portava i capponi. Quando si era finito di tagliare il grano, bisognava fare, si chiamava le cavallette, i covoni, i covoni, poi fatti i covoni si mettevano nell'aia, nell'aia si trebbiava o si batteva, dipende dal periodo storico. Bene, in quel caso, fatte le cavallette, c'era una cosa simpatica, perché bisognava per ognuna delle cavallette, la cavalletta era un insieme di mannocchio, ma in dialetto si dice, un insieme di fogli di fili di grano riuniti, che faceva un fascio. Tanti fasci fanno una cavalletta, ed erano fatti a croce perché il vento, potendo penetrare, asciugava il grano, e poi queste venivano messe, si faceva il barco, il barco in, la serra in dialetto, ma comunque il grande mucchio, e poi veniva la macchina da trebbiare, oppure lo si batteva con un attrezzo che si chiamava si batteva con, dipende dal periodo storico, oppure ci si passava sopra con gli animali, eccetera. Allora, per andare, dicevo, a dire al padrone se si poteva cominciare a trebbiare, per dirgli quante cavallette c'erano, ogni cavalletta una spiga, quindi si faceva una spiga di grano per ogni cavalletta, le si univa, si portava questo qui e poi gli si portava degli altri capponi per continuare a lavorare dalla mattina alle 5 fino alla sera a mezzanotte, perché questo era il grano, veramente un po' più tardi, perché bisognava aspettare che passasse la guazza o l'umidità o la rugiada, come si dice. Però era una cosa abbastanza pesante. Insomma. Quindi ci sono stati dei periodi anche abbastanza pesanti. Io penso che era abbastanza normale doversi rivoltare, come posso dire, ad un rapporto di questo tipo. Parlando della possibilità del rapporto sempre tra padrone e contadino, voi avrete sicuramente visto, io l'ho dovuto fare, l'ho fatto con piacere perché mi serviva per completare la mia, quello che io mi sono messo in testa da questo tipo di rapporto. Io mi sono rivisto L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi e Novecento. Sicuramente ricordate l'ultima scena del film L'albero degli zoccoli, quando il padre carica sul carro trainato dal cavallo tutte quante le cose che gli sono rimaste, perché era stato mandato via dal padrone perché aveva tagliato un albero per fare con quell'albero lo zoccolo per il figlio che lo aveva rotto andando a scuola. Qui apro una parentesi: la risposta dei padroni ai contadini che volevano mandare i figli a scuola era: ma che bisogno ci sta di studiare per lavorare la terra? Che bisogno c'è di studiare per lavorare la terra? No? Questo dà un po' la cifra, cioè si controllava tutto da parte del padrone. Bene, in questo libro io non ho trovato l'albero degli zoccoli, ma ho trovato un contadino che, per siccome era freddo, ha dovuto tagliare un albero, perché anche gli alberi erano di proprietà del contadino, anche quelli dei boschi. Ha tagliato un albero per riscaldare la casa e questo è stato mandato via. Un altro ha tagliato, pensate, è stato mandato via perché ha tagliato un vincastro, in dialetto nuvink, cioè è una pianta, quelle flessibili, con quelle cose piccoline ci si legano le vite, insomma è una cosa... Vincastro credo che si chiami in italiano, perché con quella pianta lì si facevano i piedi della sedia. Lui ha tagliato un vincastro, oggi lo trovi per strada, cioè non serve a niente oggi, no? Beh, un vincastro ha tagliato, perché doveva farla a mettere a posto la sedia, il padrone lo ha mandato via. Questo è il rapporto che esisteva tra padrone e contadino. Poi dopo, più tardi, credo che parleremo anche delle lotte contadine. Non so se Giancarlo ha qualcosa da dire a questo proposito. Insomma. Io parlo molto, sono lungo mi tagli, non ti preoccupare, mi cappellotto, mi fermo. No, ti fermiamo comunque. No, io a Giancarlo volevo chiedere due cose insieme. Cioè, la prima, sì, come tutto sommato, diciamo, la Camera del Lavoro ad Ascoli può essere anche un osservatore privilegiato su una realtà che comunque rimane in parte agricola, ecco. E quindi volevo capire un po' come era cambiato il mondo contadino. Ma contemporaneamente voglio fare anche un'altra domanda che invece va, cioè uno di mestiere fa una cosa, fa il segretario della CGIL, allora io mi dico, cioè com'è possibile quando Pietro Nero prima raccontava, dice, la cosa, il capestro sui contadini era il fatto che ogni anno si poteva disdire il contratto. Cioè il fatto che noi oggi assistiamo, cioè noi oggi viviamo in un mondo, che è tutto il discorso del precariato che noi abbiamo fatto qui dentro, dove c'è gente che lavora e ogni anno può essere mandata via perché gli si può disdire il contratto. Allora tutti i passaggi, pur in condizioni completamente diverse, faccia in mezzo secolo, portano allo stesso risultato.